Grazie Massimiliano, buonasera a tutti. Vengo da un incontro analogo a questo, analogo a questo che si è tenuto a Falconara, era presente anche Carlo, così ha saputo dell'iniziativa. E come dire, il tema è stato impostato, come ricordava Massimiliano, nello stesso percorso che noi abbiamo fatto con l'ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale, dove la problematica del rigassificatore, Massimiliano qui dice le istanze le portiamo in regione, ma il titolare vero del provvedimento è il governo, lo Stato in questo caso. Quindi il progetto sarà vagliato in una conferenza tra Stato e Regioni, ma l'ultima parola attiene allo Stato. Un percorso, guardate, l'abbiamo utilizzato come metafora questa sera, ma anche in altre occasioni. Guardo, saluto il sindaco di Montemarciano qui, che se non fosse una cosa vera, non fosse un progetto che è stato proposto, un progetto che è stato approvato, che ha avviato un percorso, può sembrare uno scherzo, perché può sembrare che chi ha pensato e ha ipotizzato di realizzare a largo di Falconara, a largo dell'aeroporto, a largo dell'API, il rigassificatore, può sembrare una buttata o una provocazione, e invece è una cosa vera. Io ho avuto modo di incontrare il comitato, i comitati, il saluto, con i quali mi sono preso un impegno di farci parte fortemente attiva rispetto a questo percorso, perché in effetti un assente di questo percorso è il comune di Falconara. Possiamo dire, non ho paura, come non abbiamo avuto questa sera paura di dire le cose come le pensiamo, anche in un'assemblea un po' più complicata, perché c'erano gli operai dell'API, c'era l'RSU, e quindi dove le posizioni ovviamente sono molto più articolate e molto più difensive, forse anche per loro anche in maniera giusta e opportuna, della propria struttura, e quindi guardano come obiettivo finale i 400 posti di lavoro, che sono un numero importante, ma non c'è una visione più complessiva. Allora noi su questa iniziativa ci stiamo, il Comune di Senigallia lo vuol fare con un'azione da protagonista, anche di coordinamento degli altri comuni, come è emerso questa sera con Ancona, con Chiaravalle, con Montemarciano, perché il problema del rigassificatore, come ormai tutti i problemi ambientali, non sono più di carattere localistico. Non si può parlare più di polveri sottili che riguardano più Montemarciano rispetto a Senigallia o rispetto a Falconara o al Conero, perché quelli sono temi d'area vasta, e quindi tutto quello che accade, in quel caso delle polveri sottili, ovviamente con un raggio decisamente più ampio e molto più articolato, ma nel caso di tutte le problematiche ambientali riguardano l'intero territorio, almeno su scala provinciale, se non su scala regionale. Quindi non ci può essere un comune che è titolato e titolare a difendere un provvedimento perché si contrabbanda il rigassificatore per una scuola, anche in un momento così difficile, o per la manutenzione di una strada. Non può essere. Non può essere. Quindi noi dentro questa partita ci stiamo in maniera convinta, e penso che quei tre temi che questa sera Carlo ha sentito, abbiamo annunciato, che sono i nostri, cioè quella della difesa dell'acqua pubblica, quella della lotta al rigassificatore, quella della contrarietà alla turbogas di Corinaldo, sono tre temi che questo governo cittadino vuole attuare in maniera convinta, e io devo ringraziare Massimiliano e tutti i consiglieri comunali, saluto il segretario del Partito Democratico che è presente, Fabrizio Volpini, c'è il vice sindaco, ci sono altri consiglieri, che dove ovviamente questa la facciamo in maniera convinta, articolata e penso con una sollecitazione indispensabile alla Regione. E vengo al tema, perché i consiglieri regionali di maggioranza bisogna che si fanno carico di questo problema, perché se rimane solo nell'ambito delle municipalità ce la giochiamo tra il Conero e il Nord, quindi Senigallia, poi il problema di Recanati tra il Conero e il Sud, però bisogna che la Regione su questo bisogna che la dice per quello che pensa e lo dice in maniera convinta. Il provvedimento preso, secondo me, in maniera inconsapevole, perché le cose le fanno in maniera assolutamente inconsapevole, dalla Prestigiacomo qualche settimana fa, forse in qualche modo ci aiuta, perché però penso che non l'abbia fatta in maniera scientifica, non si è accorta. Mettendo le 12 miglia di protezione di salvaguardia delle aree protette, noi in quel caso avremmo l'area protetta del Conero, puntato le 12 miglia, alla fine rimane poco, e quindi forse quel provvedimento che ha già avuto un percorso di autorizzazione, anche se interloquito, della via nazionale, ecco che potrebbe aiutarci utilizzando quello strumento. Ma capite che c'è una proposta con... Se si accorgono che è troppo limitante o soprattutto non asseconda le richieste il privato, Gas de France o chi per lui, correggere il provvedimento diventa una cosa abbastanza semplice e anche rapida. Noi riteniamo che questa regione non abbia bisogno di questo tipo di sostegno per l'energia. Noi facciamo altro tipo di cose. C'è un'economia, tra l'altro, che sta lavorando rispetto alla green economy come occupazione, quindi questo tema non lo possiamo dimenticare. E quindi i processi che dobbiamo mettere in campo sono quelli di riconversione. Vale per l'API, e noi abbiamo voluto tenere separato il tema proprio per questo, perché se aprivamo il tema della ricollocazione o della riconversione dell'API avremmo perso di vista l'idea del rigassificatore, ma anche il tema dell'API, questo territorio lo deve porre in modo determinato, perché quello che succede lì poi compromette un'economia che è questa, che è quella del Conero, che è quella della nostra regione, per la quale investiamo tanto, e fortunatamente anche quest'anno abbiamo avuto grandi ritorni. Quindi io vi ringrazio per l'iniziativa, continuiamo a utilizzare tutti gli strumenti, quelli ufficiali del faccia a faccia, ma anche quelli istituzionali, e quindi su questo l'amministrazione tutta c'è, a iniziare dal sindaco, e anche quelli della rete, perché vedo che è molto contaminante e riesce a coinvolgere tanto. Grazie. E buon proseguimento, rimango fino alla fine.